Il punto di Stefano Folli. Che sia per ragioni tecniche legate alle procedure parlamentari, ai tempi della giunta a cui spetta decidere, o per l'inizio di un ripensamento, sta di fatto che la conclamata crisi di governo è stata rinviata. Berlusconi attende e i famosi falchi mordono il freno. Gli ottimisti pensano che forse il buonsenso pian piano sta riaffiorando, dalle parti di Arcore certo, ma anche nel Partito Democratico, che contro il vecchio avversario mostra una vena intransigente mai vista in ogni altra circostanza. A nessuno, a ben vedere, può convenire precipitare adesso in una crisi al buio. Ed Enrico Letta fa la sua parte, indicando quali sono i rischi del salto nel buio, in contrasto con gli obiettivi virtuosi che magari il Paese potrebbe raggiungere salvando la sua stabilità interna. Oggi che l'Europa, assai più dell'Italia, vede arrivare un po' di ripresa economica.